Siamo in collegamento con Loris Cattani della rete Pace per il Congo. In questi giorni si sentono notizie poco confortanti per quanto riguarda la Repubblica Democratica del Congo, che sembra invasa da una parte dai ruandesi e dall'altra parte ugandesi. Qual è la situazione attuale in Congo? Già il mercoledì 24 novembre è stata proprio la missione dell'ONU in Congo, la MONUC, che ha dato l'annuncio della presenza di truppe ruandesi, truppe dell'esercito regolare ruandese in Congo. E questo in seguito a una telefonata ricevuta dal numero uno della MONUC in Congo, William Swing, e poi in seguito a due telefonate all'ambasciata degli Stati Uniti e all'ambasciata della Gran Bretagna a Kigali. L'invio di truppe ruandesi in Congo fosse una decisione già presa da parte di Kigali. Si trattava di vedere un po' il tempo dell'invio. Da fonti locali, si hanno delle segnalazioni della presenza di truppe ruandesi già dal venerdì scorso e la domenica scorsa. Quali sono le vostre attività, le attività della Rete della Pace per il Congo in loco? Beh, noi come Rete di Pace per il Congo non abbiamo nessuna presenza, in quanto siamo un piccolo gruppo di congolesi e ruandesi che vivono qui a Parma e di missionari. Noi missionari siamo stati in Congo vari anni. Quindi adesso in Congo ci sono i nostri confratelli che portano avanti il lavoro missionario e siamo in contatto con loro, però come Rete Pace per il Congo siamo presenti attraverso i nostri missionari. Attraverso i vostri confratelli che tipo di informazione potete avere riguardo a queste invasioni che, ricordiamo, vengono sì dalla parte del Ruanda, però le agenzie dicono anche dalla parte dell'Uganda? Ci sarebbero dei gruppi ribelli ostili all'Uganda che starebbero progettando delle azioni contro l'Uganda. Il motivo, diciamo, ufficiale per cui il Ruanda sta prospettando l'invio di truppe ruandesi in territorio congolese è di mettere fine al problema degli ex membri dell'esercito ruandese, l'anteriore, e delle milizie Interahamwe, che Kigali considera responsabili almeno parte fra di loro sarebbero responsabili del genocidio del 94. Quindi il motivo ufficiale per cui il Ruanda avrebbe deciso di mandare sue truppe in territorio congolese sarebbe un motivo di difesa delle sue frontiere. Infatti stanno invocando il fatto che il lunedì 15 novembre degli estremisti Hutu ruandesi avrebbero portato un attacco dal Congo verso il Ruanda. Però dietro questo motivo ufficiale, che è diventato un po' un fondo di commercio per il Ruanda, l'autodifesa, ci sarebbe piuttosto la difesa da parte del Ruanda dei suoi interessi economici in Congo, soprattutto il controllo delle miniere di cassiterite e di tantalite nella zona di Walikale, che in quest'ultimo periodo starebbe un po' scappando dal controllo del Ruanda, e vari gruppi vicino al governo di Kinshasa avrebbero messo gli occhi su queste miniere.